gli ho messo la serratura di sicurezza e ho cambiato il bussolotto. Non si sa mai che qualcuno avesse le chiavi, capito? Non si sa mai. No, ma non entra di più, anche perché non ci sono solo quella roba, c'è tutta roba mia. C'è un'antenna, ci sono mobili, c'è un divano, c'è il pinguino De Longhi, il condizionatore che tra un po' ne lo scendo, c'è il ventilatore dell'estate, sai, c'è la roba del mare, c'è un sacco di roba su, dove ti può essere, noi casa duia. Le cose non sono loro, non bisogna toccarle, solo che quando le vedono così, si buono il venire puremo. Non è roba mia, ti ripeto, Fra, è roba del condominio, è roba che abbiamo pagato tutti, però se tu la chiedi una cosa ti si dà, non è che... Io ad esempio mi pare due li avevo dati a Massimiliano per campagna, qualche un'altra l'ho data, ma ho chiesto e mi è stato mai detto prendere qua, così spariscono prima. E non che tu fai una Ianna che costa 30 euro per poner a posto la Ianna, che hanno la blafoniera con l'adesivo. È un controsenso, no? Mi pare più così. Vabbè. Niente, allora chi è? Vieni con Natalino. Uia, ma di segnale quanto ti arrivo lì? Adesso mi arrivi 5 e radio 4. Poco fa mi arrivavi 9.10 là in FM, 9.10 e radio 5. Guarda adesso un po'. Adesso sei salita a 7. A 7 e la radio è 5, così è. Sì, più buono, ho migliorato. Grazie di ingegnare, Attari. Ehi, vabbè, ma non anda bene. Vabbè, la potenza della radio è. E allora? Regolabile, 8001? No. Super S? No, come te chi su di Dino, Come quello di Tino. Ah, sì, cazzo, che bella quella radio. Bravissimo. Natali, se metti l'MB più 4 lì hai la modulazione come il K. Io a Tino mi prende per il culo a me a volte, non riesco a distinguere se sta usando quello piccolo o quello grande. Ma cosa c'ha lui il 4, l'MB più 4, che me li faccio dire da lui i piedini? E più 5 c'ha, e più 5 è la stessa cosa, non cambia niente. O più 4 o più 5 spinge da Dio quel baracchino, spinge da Dio. Sta lavorando Tino, sta lavorando, perché mi devo vedere sabato che devo darle una cosa che mi ha chiesto. Quindi lo puoi chiamare, non so se ti risponde, ma lo devi chiamare stasera, dopo le 6. Sì, vabbè, no problem, dai, aspetta un attimo che... Ma cazzo, Natalì, aiù, mi hai insegnato tu a fare le connessioni, grazie, no, se riprendi alloggio. Aiù, prendi il tester e fatelo. No, che devo sapere il piedino, che c'è l'alimentazione lì, non devo... Allora Natalì, il PIN 4 lo devi lasciare libero, non saldare la ricezione. E te, mi, lo connetto levato, io scrivi Dino, ciao, ma tanto, benissimo, sì, io ti ascolto bene, c'è anche Franco da Sorso, forse ti ascolta anche meglio di me, perché tu sei più avanti, in via Grazia Deledda, quindi sicuramente ti ascolta meglio, vai Fra. Ma nel senso che sta parlando, ma non lo capisco però, non lo ascolto meglio qua. È vero che non fa l'antenna Antonio, ma me ne ero dimenticato, vabbè, perché qua è Santiago 9, quindi pensavo che... Se lo ascoltassi anche tu, Fra, vai. Aiù, Natalì, diteli a Natalino i numeri che deve staccare e saldare. Aiù, quel Ricchisi, diteglielo. Carta e penna, Natalino, carta e penna. Aspetta un attimo. Te l'ha detto già Antonio. PIN 1, la massa. PIN 2, la capsula. PIN 3, trasmissione. PIN 4, non saldare nulla, cioè non saldare la ricezione. Perché al PIN 4 in quell'apparato gli arriva tensione per i tassini up down e squelch, auto squelch K. Sì, lo so. Com'era Antu? Allora, uno massa. Che ti rivali a Natalì? Aiù. Aiù, a scrivere, forza, con la telescrivente. 1, 2, 3, massa, capsula, trasmissione. Assai mi può. È amplificato, l'MBQ4 devo mettere. Sì, sì, sì, sono entrato già da ieri. Tranquillo, sto facendo poco, è la verità. Sto facendo poco perché mio cognato praticamente c'è il cantiere a Olbia, capito? E quindi sta andando lui. Sta andando lui perché lui c'è anche la casa a Olbia. E quindi non viaggia, capito? Però io sono andato ieri, oggi no, adesso ci andrò a metà settimana a Olbia. Devo vedere com'è. Io mi sto occupando qua della carta dell'ufficio stamattina. Ho fatto un po' di commissioni e poi a mezzogiorno meno un quarto, così. Ma sono rientrato a casa, intanto non dovevo fare altro. Ho fatto solo un po' di email, ho mandato dei preventivi che mi ha detto di mandare, basta. In Trovato dove c'è la casa in Viale San Francesco, c'è la casa più l'ufficio c'è. Sì, sì, a molti servizi, è una società di famiglia, capito? Sto collaborando, non è che. Io come ruolo sono amministratore delegato, lui è amministratore unico e mia moglie che è la sorella è la titolare della società, capito? Va bene, e quindi niente, dai. E su vane, qualcosa in più in tasca per prendere altri, ha preso a me anche perché io cantiere ne ho fatto abbastanza, quindi mi sono muovo. Vai, Fra. Scappa, vai. Oh, Fra, vi devo lasciare, dai, che sto facendo cosa. Ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti, da. Ehi, ehi, ascolta, Fra, ti volevo dire, ma il Mickey Gate del 140, come lo tieni? Allora, il Mickey Gate è sotto la C. Ma ecco, sotto la C. Sotto la C, io lo tengo a manetta e non c'è nuda dalla C a manetta, ma va a pulirlo a manetta. Ok, ora è a manetta, tutto, però mi pare che strappia, no? Cazzo, non vedi, almeno il tuo strappa, il mio non c'è nuda. O sotto la C o a manetta non c'è nuda. Vabbè, devo aprirlo a vedere se quel trimerino dello slider è al massimo o è a metà, perché mi sembra sia a metà. Non spinge come quello che c'avevo prima. Va bene, mettilo sotto la cifra, dai. Ciao, ci sentiamo dopo allora, ok? Passo il cambio a Marco se vuole riprendere, dai. Eia, vediamo se Natalino deve risaldare, perché prima dove ce l'aveva l'MB più 4? Sul piccolino, no? Ciao, saluto a tutti. Ciao Fra, vai Anto, e poi vai per Natalino a vedere cosa sta combinando. No, lo faccio stasera, non ne ho voglia adesso, poi fra un po' devo mangiare, no? Devo cucinare, quindi no, adesso non fa. Già me la faccio stasera, perché sono alla rovescio, capito, i contatti. Tu segui quello che ti ha scritto Antonio con Marco e te lo fai così. Però Natalino, non c'è bisogno di metterlo al massimo, ma dalle appena, più del normale di potenza con la radio, appena in più ti sentono meglio, no? Sì, già lo so. Appena, non c'è bisogno di metterlo a manetta. Dalle almeno 6-7 watt, non ne erare 3-4. Ma devo uscire così io. Cazzo, meno c'è manutami. Ci distribui con 4, distribui con 7, ma futti i dinti. Guarda, così bene va. Bravissimo, lascialo così. Quanto le sta dando? 7, 8. Non è un battimetro attaccato, a occhiometro sto facendo. Lascialo così che sei 9,20, perché poco fare 9,10, è troppo basso. Lascialo così, a futti i dinti, il giorno è a massimo. Ok, riprendi Anto. Io, aspetta, allora dovrebbe dare 12 watt quell'apparato in AM. Sì, in FM sì. Poi quanto innesca però quale? L'MB più 5. Prova. La timbrica come Antonio e Claudio? Sì, la timbrica è buona, ma io sento una moglie alternata sotto, ma fuori. Ehi, poi sta rientrando un po' di innesco, dai. Va bene. Che cagamento questo mic, lo devo abbassare. Ecco qua. Ehi, lo sto toccando a mano. Non va bene così, lo puoi usare, lasciala così. Prova, aspetta. No. Più di 6 fischia. A pigliare il culo. Senti, ho 5. Sì, perché vabbè, comunque un po' di monitor te lo fa questo apparecchio, Un po' di monitor anche se lo disability. Ecco, abbasso i watt, almeno vedo i picchi sullo smitter. Allora, il tono è a 2. Natalino, dovrebbe uscire una cosa del genere, dai. Marco, c'è la voce più calda di te. È perfetta, Marco, bellissima modulazione. Lascialo così, a 5 e ai toni a 2. Va bene. Alternato c'è, guarda. Prima stavo toccando il corpo del... Sentire la ventola più che altro, la ventola dell'alimentatore, dai. 1, 2, 3, 4, 5, distanza 20 cm, ok. Tono a 2 perché sennò è troppo acuta. Va benissimo, no, toccaci, non c'è nessuna alternata, la radio è perfetta, vero Anto? Perché sei sattico Anto? No, Anto sì, un bel alto di segnale, più di 9, sì. Si bumpendi? Sì, sì, adesso va bene, è troppo alto di ingresso. Infatti, lascialo così che va meglio. Sì Marco, cazzo va benissimo quel microfono, alla grande, non alla grande. Seia, vabbè. Vabbè, io con questi microfoni da tavolo mi trovo un po' strano, non mi piacciono tanto. Poi una cosa avrei voluto sapere, se quell'apparecchio che è Natalino ha il trimmer della M già aperto oppure se è chiuso come di fabbrica, perché qua io l'ho già aperto. Già sparito, Ui, Natali, certo se non mangia l'un amore. No, che sono qua. Antonio lo può sapere se è stato fatto. Antonio, amate l'altro Antonio Riserva, no? Scusa, mi sono confuso con Coso, come si chiama? Poi, con Fabrizio Master. Vabbè, io mi assento, dai, che... che mi ha chiamato la 50. Ok. Antonio, ti volevo chiedere, gliel'avevi aperta la modulazione AM dal trimmer? Lo so che faccio fatica a copiarti, però proprio sei saturo di brutto, no? Non è per niente limpida la modulazione rispetto ad altre volte. Meglio. Sì, meglio, però non è pulita, pulita. Ok. Questo MB più 5, mio paranoia, io sono più per il mic originale. Ok, allora ti volevo dire Anto, comunque, qua di fabbrica, questo è marcato Intec, mi dava 12 watt in AM, anche il 6009 della CRT, 12 AM, mi pare 40 FM e credo 40 SSB comunque. Giù di lì. Seia, Franco di Sorso, ci sei ancora? No, ha chiuso, se non è in ascolto, sta facendo cosa. No, ma fai bene Marco, lascialo stare così. Sì, già non lo tocco, dai, 5. Caspita, però per lasciare un microfono a tavola 5 mi uso quello normale, direttamente. Certo, a mani libere, guarda. Blocco il tasto, posso anche farmi una pugnetta, che ne so. Sì, ma scusa, se io ti dico che va molto meglio il microfono di tavola, anziché quello da palmo. Quello da palmo ho tanto di cappello, ma questo è più bello la modulazione. Cosa devi stare con questo microfono in mano? E sai cos'è? Che qua non ho posto, ce l'ho in bilico sul bracciolo del divano, capito? Qua non ho tavolini, le stazioni come le vostre, e rimane in bilico sul bracciolo, a seconda di come muovo il braccio mi ingaggi buru. Ok, dai, vabbè, ottimo, finalmente Natalino è stato accontentato, perché mi stava mangiando il cervello a me per il 3009, e io gli ho detto, Natalino, non lo posso dare, quello, cioè, l'ho comprato per tenerlo. Allora voleva questo, stessa cosa, ho detto, questo l'ho comprato per tenerlo, cioè non compro gli apparecchi, quello che potevo dare l'ho dato, ma i migliori li ho tenuti, dai. E quello ve l'ha preso? Su internet? Ma quello che ha preso Natalino, no, Antonio gliel'ha dato. Ma chi? Antonio Riserva? Non so, sto chiedendo a te da chi l'ha preso, se l'ha preso qua a Sassari, se uguale a quello che c'ha Tino. È bellissima quella radio, molto bella, completa, bellissima. Poi c'ha watt, non c'ha problemi. Eia, ma Anto, confermi, gli hai detto tu? Anto, ma sì, benissimo, hai fatto bene, mi sono molto bella, questa marca qui c'è veramente una radio seria, io l'ho vista, mi ha mandato la fotottino, che ci ripiccia, ma è scelguata la favola, MB più 5 e uso quella anziché usare queste qua in 27, queste le dedico magari un po' per sfaso, magari 4,40 lo metto in 10 metri, 4,30 in 20, lo sfaso un po', vediamo, va, ci faccio un pensiero. Ma per questo? E via, no per quello, perché tu ce l'hai uguale a quello di Natalino, no Marco? Sì, io sto usando lo stesso di Natalino, solo che è marcato Intec. Ah, ho capito, ho capito. È una bella radio, mi piace quella di Tino, cioè se è uguale a quella che c'ha Tino, avete veramente dei bei baracchini, ottimi. Guarda, questa l'ha avuta Gianfranco, ma anche tu ce l'avevi questo, sbaglio, in prova o per un periodo limitato. 5005? Deia. Sì, ah, quella è. Sì, no, non era la mia. Non era la mia, era Gianfranco, me l'ha provata per usarla, hai capito? Però è molto bella, sì, quella lì, molto bella. Infatti ho fatto male a non prendermela, quella di Gianfranco. La potevo ottenere, a me mi aveva fatto un prezzo particolare, solo io baracchini non ne uso, cazzo, io sono abituato a queste radio da 30 anni, è dall'87 che uso queste radio e quindi non mi trovo più con i baracchini, non mi trovo più, c'ho il DACMI, è acceso, in stand by, c'è anche un bel microfono, ma non mi trovo io, se non c'ho il K non so più modulare, cazzo, una rottura di balle. Guarda come se ne accorge, mi mezzo cosa in più a pigliarla in loci. Ecco perché, scusate. Ehi, ti volevo dire il K, sì, ho detto se non avete il K non potete modulare, eppure basta un baracchino che esca bene, alla fine siamo lì, mi. Guarda, questo è il DAC, non esce bene, non lo so, boh, sono talmente abituato che non c'è niente da fare. Vabbè, se a te piace quello, ci mancherebbe, usa quello, anche il DAC comunque va bene, certo non è spinto quanto l'altro, però il DAC è spettacolare di suo, per la figura che fa, no, per l'estetica. Lo so, però io, vabbè. Ricomuto al 4, adesso commuto al 4.30, là. Tanto non cambia niente, poi stasera faccio andare un po' 140 che è sempre il tuo dato. Vediamo se Antonio Riserva ha mai avuto modo di provare la Linco 135DX, è molto simile a questo, di dimensioni più compatte, però stesse manopole, stessi tastini, magari più piccoli, tondi, è una cosa simile ma più compatta. Io ho la Linco 599. Ah, esatto Anto, adesso si chiama DX10 ed è il 135. Ascolta, come ti sei trovato? È molto simile a questo, vero? Ehi, sì, quello lo vendono da Media Globe tuttora. E, vabbè, mi stava piacendo anche quello, d'altronde a me piace tutto di questa roba qua, quasi tutto. Lo conosci il 599 della Linco? No, ma presumo che sia roba amatoriale dalla sigla, non è roba cibino. No, è amatoriale, però io ho avuto anche quello lì, il 135 come CB, l'avevo dato a uno di Alghero, che non c'è più, Angelo Clifo, che è morto, anche lui, quello che era morto con la moto, incidente stradale, Alghero Olmedo, si era sbattuto a una roccia in curva, porca miseria, anche quello, oggi aveva la mia età, 60 anni, avevamo la stessa età, 2 mesi di differenza, l'ho dato a lui, va bene, comunque sono baracchini che vanno bene, a me è l'unico baracchino che mi ha soddisfatto, io lo usavo con l'MC60, era stato modificato da Archimede, capito? E usavo l'MC60 con lo spezzone, con la batteria dentro, ma usciva che era una cannonata, veramente molto molto bene. il presidente Lincoln. Quello è veramente un signor baracchino. Sì, 140 è un muletto, 140 C80, sono dei muletti, ma anche il 430 mi ha dato tutte le mie soddisfazioni, io sto usando adesso, paola, appena acceso, è una settimana spento, l'ho lasciato a 20 watt, a 20 watt è, invece il 140 tocca fare il VV, infatti adesso l'ho acceso, prima di usarlo ci vogliono 2 ore, se no watt non ne dati, la rottura di balle perché sono 2 conversioni, a tu lo sai. Nel 430 e 440 sono 3 convertitori, quindi 3 conversioni e tengono la stabilità della potenza, però vanno molto bene, tutti vanno bene con le radio. Sono le 4 radio vintage della Kenwood che a me sono sempre piaciute, 27. Io ne ho, esce bene anche il 950 con l'MC60, che io a volte lo uso, esce molto bene il 756 della Icon con l'MC80, te l'ho fatto sentire, visto quanto è forte. Però non posso usare quelle radio, la 27, preferisco usare questa. Già c'è, devo solo convincerlo a darmelo, già c'è. È a Olbia, lo sta usando lui adesso perché stava facendo dei contest e quindi lo sta usando, però c'è, è anche in buonissime condizioni, quindi completo, 140, MC60 e antenna, MC80 è un 140 con la scheda di 6 metri, mi ha fatto già usare, se tu li metti vicini sono identici, dentro sono precisi, non c'hanno niente di diverso, solo il 680 c'è la scheda, c'è il chip, una scheda piccolina per i 6 metri e basta. No, C80 a quel prezzo no, io l'avevo trovato 300 euro di un radioamatore che l'aveva comprato solo per i 6 metri, capito? Quando ci hanno assegnato i 6 metri, no? La radio con i 50 mega costava un pacco di soldi. E allora lui aveva trovato questa soluzione, 300 euro usava l'HF-030 normale, per andare ai 50 mega usava il C80. E poi se l'ha venduto, gliel'ho comprato io 300 euro, e io, vabbè, poi ho avuto tutto, ce l'ho ancora, tutte le radio sono uscite con i 6 metri, quindi me le sono comprate. E quel C80 l'avevo passato a Massimiliano, l'attento, boh, 3 mesi, mi pare, si l'ha venduto. Così è full optional, messo al minimo, è Claudio. K, va bene. Cosa volevo dire, Antonio Riserva? Sì, anche questo l'ho programmato col cavetto, gli ho impostato prima di tutto 60 canali per banda e fa da 26,3 ai 30,105, che poi non servono a niente perché siamo sempre sul 10 e basta, poteva avere anche un canale mi. Sì, l'avevo preso assieme all'apparato. No, perché siccome non ero pratico i primi tempi, avevo notato che quando parlavi in USB magari andavi sui canali intermedi, il canale ti rimaneva sfasato, no? Se non lo riportavi subito in posizione centrale il clarifier. È una cosa che non mi è piaciuta. Insomma, avevo incasinato il canale e l'avevo dovuto riprogrammare ulteriormente. Adesso ho messo il trucco, non lo tocco più. Cioè riporto, se mi sposto su un canale, che ne so, con lo 0 finale, lo rimetto a 5 finale, già è compreso, da. Le bande sono A, B, C, D, E, F, 6x6, 36, che poi questo dovrebbe essere 25, 615, 30, 105, però per coprire fino ai 25 sarebbe servita una banda in più, capito? Cioè il range ce l'hai, però questo range lo puoi spostare o più in basso o più in alto, e quindi devi decidere se spostarlo più in alto il range o più in basso. Poi ripeto, non serve a nulla, al limite la tripla 5 può servire, poi il resto non serve a niente. Claudio, ti volevo chiedere, non è che mi dici se è centrato in USB veloce? Sì, vai. Chiappa, va bene, adesso ne bogo tutto, dai, soprattutto questo minchiofono da tavolo. Aspetta che ho toccato, sono troppo alto, ecco qua. No, va bene, Marco, lascia stare tutto così, no? Non succede assolutamente niente. Vabbè, dai, io però no, mo vi lascio che vado a preparare qualcosa e ci aggiorniamo stasera. Ok, ciao Antonio, Marco e chiunque fosse in ascolto sul canale 10, anche Natalino Company, va bene? Ciao a tutti. Eccomi, allora ho rimesso il mic originale perché ha la comodità dei canali e l'autosquelch, più che altro dei canali, dai. Sentiamo, ciao Claudio, buon tutto, ci sentiamo stasera. Antonio, idem, con patate, dai. KK, buon pranzo a tutti, ci sentiamo stasera, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao.